Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 9 novembre, la seconda edizione di Italia in controluce, le storie di cronaca italiane, i reportage, le inchieste, il costume, lo spettacolo. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Carlo Azeglio Ciampi, livornese di 90 anni, un uomo che ha attraversato con la sua storia politica e professionale anche la storia di questo paese, la storia della seconda metà del Novecento. Militante del Partito d'Azione, antifascista, una vita dentro Banca Italia, di cui è diventato governatore, ministro, presidente del Consiglio di Governi Tecnici e Politici, presidente della Repubblica tra i più amati. A lui e al libro scritto da Alberto Rioli del Sole 24 Ore è dedicata questa puntata speciale di Italia in controluce, Giovanni Bracco. Non è il paese che sognavo. Ha un sapore amaro il titolo dell'ultimo libro di Carlo Azeglio Ciampi, frutto di un colloquio con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. In questo taccuino laico per i 150 anni dell'Unità d'Italia pubblicato da Il Saggiatore si diffondono le esperienze di Ciampi, governatore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio, ministro del Tesoro, presidente della Repubblica. A Ciampi gli italiani devono tra l'altro la sconfitta dell'inflazione, la conquista dell'euro, il recupero di valori profondi. Presidente, questo libro è una dichiarazione d'amore per la nostra patria, è anche una lezione di vita, però c'è un dato di fondo, quella che lei chiama la strage delle illusioni. Non è il paese che sognavo. Da alcuni anni a questa parte i due punti di riferimento, sono i valori e le istituzioni, sono state messe da parte. La base del tutto nella vita di un popolo sono le istituzioni, per quanto riguarda appunto il paese, la collettività, e i valori per quanto riguarda i singoli. A che cosa si deve questo degradamento morale, se questa parola può essere pronunciata con qualche esito? È la classe dirigente che ha perso questi riferimenti. Manca quindi l'esempio. Noi abbiamo assistito al ritorno alla grande della corruzione, c'è l'evasione fiscale, ci sono le prostitute nei letti del potere, sono questi esempi che fanno male al paese. Lei dice quello che è evidente, solamente molto, che ci sono persone che sono poste di responsabilità che non se ne rendono conto di quanto male facciano con certi comportamenti. Lei rinvia all'analisi del politologo francese Marc Lazar, che individuava il suo come archetipo, diciamo, probo, virtuoso, e quello di Berlusconi, che invece viene definito individualista. Sono due modelli antitetici. Così li pone Lazar. Lei anche, presidente, li sente così? Per quanto mi riguarda, mi sento così. Per quanto riguarda me, per quanto riguarda l'altro, non sta a me dire come... C'ho una vita alle spalle. In questa vita lei ha dovuto anche fare i conti con Berlusconi, presidente del Consiglio, lei dal Quirinale, ha avuto anche rapporti molto tesi. Ha avuto momenti anche non facili, insomma. Io ricordo delle rivelazioni che ha fatto Eugenio Scalfari su Berlusconi, che dichiara Mediaset come cosa sua quando lei intese rinviare alle Camere. La Gazzarri fu uno degli scontri più violenti, come pure molto altri episodi dove ci sono stati. Devo dire però, a difesa di Berlusconi, che quando io appunto finivo il settennato, lui venne a trovarmi a Quirinale per scongiurarmi con Letta perché io accettassi il rinnovo. Usare queste parole, che le ripeto perché le sono a mente: mal si confà alla forma repubblicana del nostro Stato il rinnovo di una carica già di per sé lunga come quella settennale. Non c'è un buon esempio da parte, diciamo, delle autorità politiche, però c'è anche forse un cambio della sensibilità collettiva e in peggio. Non trova che questa stagione sia anche segnata da indifferenza, assuefazione? Le cose vanno di pari passo, questo mi pare che sia evidente. La stessa simpatia con la quale appunto certi comportamenti dell'attuale classe politica vengono accolti è purtroppo appunto un preoccupante segno di degrado. Segno di un degrado che evidentemente non ha fatto tesoro della parola di Mazzini, dell'educazione come pane dell'anima, l'educazione a diventare uomini curiosi, appassionati del sapere, appassionati cittadini. Lei dice parole che condivido appieno, situazione che ben si addice. Sulle note di Chopin, uno dei compositori più amati da Ciampi, prosegue la nostra conversazione col Presidente Emerito della Repubblica sul libro Non è il paese che sognavo. Pochi lettori, pochi giornali, pochissimi libri e forse troppa TV deficiente, come disse in modo fulminante la signora Franca. Cioè, non c'è dubbio che paghiamo la deseducazione degli strumenti televisivi. Oggi tutti vediamo molto balletti, fanciulle che volteggiano. Ora non voglio fare il moralista, di cervello se ne sente poco in giro. Tra le pagine più toccanti del libro io trovo certamente quello in cui ricorda gli abbracci dell'olandese Zalm e del tedesco Weigel dopo il risanamento eroico della finanza pubblica per unirci all'Europa dell'euro, ma oggi lei denuncia il tradimento del suo impegno sull'avanzo primario. Dobbiamo tornare a quell'impegno? Dobbiamo tornarci. Se noi torniamo a quell'impegno, automaticamente il rapporto debito-PIL, che invece di scendere è salito, oggi già sarebbe a 60 o 50. Perché con un avanzo primario del 4,5%, automaticamente lei ci paga gli interessi per i 4/5. Presidente, lei non cita mai Tremonti in questo libro? No. C'è un giudizio in questa assenza? Lascio a lei, perché non seguo ormai più per le vicende economiche dei conti pubblici con attenzione, entrando diciamo così, negli aspetti tecnici. Certo, molto. Il 4,5 è stato subito, nel giro di 2 anni, abbandonato. Noi fummo accolti nell'euro sulla base di quell'impegno che ho preso come ministro del tesoro, non come Carlo Ciampi, quindi come governo italiano. Nel libro lei ricorda Mario Draghi come uno dei 4 evangelisti che lei inviò in Germania per convincere i tedeschi sulla bontà del risanamento italiano. Draghi, a suo avviso, può rappresentare in questa fase un punto di riferimento. Potrebbe essere il presidente del Consiglio adatto. Con Draghi lavorato, non sono però in grado di valutare sulle sue capacità come uomo politico, come statista. Sarei disonesto a... L'ho ritenuto abile a fare il governatore. Infatti quando io molto salvai la Banca d'Italia dal rischio che stava correndo di incorrere una procedura di spartizione, lasciai al governo, a Berlusconi e a Tremonti, la scelta fra 3 nomi, in ordine alfabetico: Mario Draghi, Mario Monti, Tommaso Padoa-Schioppa. Per chiarire le mie preferenze, misi in mano a loro il curriculum di ambedue le persone, dicendo: tutti e 3 sono, a mio avviso, abili per fare il governatore. Le attitudini maggiori o minori le potete ricavare dalla lettura del curriculum. La scelta del governo cade su Draghi. C'è anche un'altra grande eredità che lei ha affidato all'Italia ed è la concertazione. Ma oggi prevalgono le fratture, non trova? Io sono rimasto emozionato quando la vedova di Bruno Trentin mi mandò un CD con alcune valutazioni di Bruno. Mi commossero. Lui mi ricordava che mentre nel 92 fece un accordo che fu pure positivo con il governo Amato, che però appunto lo sconvolse, tant'è che si divise, l'anno successivo l'accordo con me, con la concertazione, con l'accordo del 93, lo esaltò. Bruno Trentin non era persona da poco, era persona dei grandi principi. Siamo anche di fronte a una stagione politica molto burrascosa. Lei ritiene che sia finita la stagione di Berlusconi? No, non è finita, perché ancora appunto non sono una presa prevalenza, il riferimento fondamentale ai valori, alle istituzioni. Non è solamente alcuni singoli atti, proprio è una questione di forma mentis, che ancora appunto non è tornata ad essere quella della classe politica italiana. Come si potrebbe imprimere uno scatto di orgoglio, un cambio di passo? Attraverso la capacità di guardare entro noi stessi, avere la forza e il coraggio di guardare entro di noi e di riconoscere le pecche che attualmente abbiamo e di cercare la forza per uscire dalla deriva in cui stiamo navigando. Molti auguri, Presidente. Ricambi di cuore. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo Peter Bescapè alla regia. L'archivio delle puntate lo trovate sul nostro sito radio24.it, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, In Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 puntuali su Radio 24 con altre storie.